Che feci mai per femmina romana rubello di me stesso? Son felloni ai latini. Ah, se trascuro il debito, se manco all'impegno, alla fede, a po' di vitelli ancora, io perdo infin di cavaliere il nome. Oh, bellissima Imago, oh, umile zaffiro, oh, bionde chiome. Guerriero, a te! Cemigno, servile titano Roma, a vitegna di pace e di sponsali, si porta messaggera. Spargo d'oblio le nozze, lascio vitellina, e ad adempier m'accingo l'obbligo di latino. Anche quanto dicesti! Di cavaliere lo preo in uso d'osservar. Queste o codardo, perché tu non conosci, ora non fai. E Dio, perché un ebbe, oh, alma di cavaliere, questi affronti non soffro, che la guerra desira, e la guerra sappia, e che entro nella battaglia provocato, saprà servire, e padre di senato.